La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Siete lì che aspettate che io vi parli di camper, di campeggi, di tende, di canadesi, di quello che avevo già annunciato ieri o che avete letto oggi sulla pagina della Bella Estate, la pagina Facebook. Andateci e saprete tutto prima. Beh, no, non per il momento. Prima c'è una cosa molto molto importante che devo dirvi. Eh sì, è successa una carambata alla Bella Estate, perché settimana scorsa, giovedì, quando abbiamo parlato di Giochi Senza Frontiere, aveva chiamato una signora da Pordenone dicendo: ah, io ho preso parte ai Giochi Senza Frontiere nel 68 o nel 69, non ricordo più bene, però purtroppo non ho la registrazione di quella puntata, ne ho una un po' in cui non mi si vede bene. Oggi sulla pagina della Bella Estate di Facebook, dalla Grecia, Christos ha scritto: ho sentito il programma, e non so come mai lo sente in Grecia, ho sentito il programma e io ho la registrazione di quella puntata, per cui vorrei essere messo in contatto con questa signora. Io ho chiamato subito Lucia, il contatto è avvenuto e allora è stata una bella carambata. Non è commovente? Io sto piangendo, dalle tre sto piangendo, figuriamoci. Basta con questa sigla, torniamo ai nostri classici sottofondi, che poi non ci sono, perché sono io che parlo, e parliamo di quello che vi aspetta oggi. Allora, siete pronti per andare in vacanza? Forse sì, non lo so. Io vedo sempre la città piena, non trovo mai un parcheggio la mattina, immaginavo che foste già tutti al mare, niente da fare. Quanti di voi vanno via con la tenda? Quanti col camper? Quanti con la roulotte? Anzi, come diceva la signorina Silvani, la roulette. Ecco, quanti di voi quindi si muovono portando dietro un pezzo di casa? Quello che voglio sapere oggi da voi è all'800 24 0024, da oggi dirò così, perché 800 24 0024, basta. No, poi devo dirlo per forza. 800 24 0024, avete avuto qualche brutta esperienza in campeggio? Un'invasione di cavallette? Vi è crollata la tenda in testa? Un uragano vi ha portati via? Avete forato le gomme della roulotte? Insomma, qualunque cosa vi è successo su questi mezzi me lo fate sapere e io naturalmente imparerò, perché io non sono mai stato in campeggio, anzi me le guardo bene dall'andarci. E una volta all'anno il principe di Salina raccoglieva tutti i parenti, tutte le sue masserizie in questa lunga carovana, quasi un camper ante litteram, andava da Palermo a Donna Fugata. Questo è il tema che apre il film Il Gatto Pardo. Oggi ho scelto soltanto musiche di Nino Rota, perché così mi andava e ho voluto farlo. Insomma, non potete mica passare un'intera estate ascoltando danza kuduro, volete anche un po' prepararvi, culturalizzarvi. Nino Rota, quindi, dall'inizio alla fine. D'altronde poi Nino Rota ha scritto molte musiche che si avvicinano a questo concetto del viaggio, del movimento, portando o meno le proprie cose, insomma, insieme. Io non vi invidio, cari camperisti o cari roulottisti, se così si può dire, perché chi viaggia col portapacchi, un tempo c'era il portapacchi, si metteva il portapacchi sulla 600, si caricava questo portapacchi con tutto, veniva fuori una torre impressionante di bagagli, masserizie, pacchi e biciclette e si viaggiava. Oggi c'è l'ABS, il box in ABS, che è questa specie di sarcofago nero o grigio che metti sulla macchina, non si vede assolutamente niente di quello che c'è dentro. Tu puoi partire senza nulla dentro, fai un giro dell'isolato, di notte rientri, metti la macchina in garage e fingi di essere stato in vacanza. Ma se uno parte col camper, deve per forza caricarlo, non può fingere, deve per forza andare via, non può parcheggiare sotto casa. È successo anche questo a voi? Avete finto una vacanza in camper? 800 24 0024. Lo so, parlando di campeggi e di vacanze, vi state aspettando tutti quel pezzo di quel film in cui succedono certe cose e io posso mica dire di no, ve lo faccio ascoltare. Ma qui è proprio il paradiso terrestre. Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti? Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Si attento un attimo. Ecco. Fegando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire! Tedeschi noi! Se non farai espellere da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano! Shh. Prima cosa! Prima cosa piantare i picchetti! Ah, i picchetti! Oh. quasi sfasciato una mano. Guardi qui, guardi. Voi lo ascoltate, ma nella vostra mente si stanno accavallando le immagini di questo momento in cui Fantozzi e Filini cercano di costruire, anzi di, come si dice, si installare, erigere, alzare, montare una tenda. Ecco, forse il termine giusto è montare una tenda, non essendo un campeggista. C'è un altro film sempre di Fantozzi e Filini in cui vanno a comprare la roulotte nello stesso momento, nello stesso giorno, nella stessa rivendita, e naturalmente è anche la stessa roulotte, però purtroppo non si sente molto in quella clip, quindi ho cercato di, me la sono rivista io, ma non ve la faccio sentire. C'è già un ascoltatore, non posso crederci, sono già pronti con le loro disavventure. Luca da Como, pronto Luca? Buongiorno a voi. Ma sì, buongiorno. Luca da Como, provincia di Como, un piccolo paesino a Turate. Ah, Turate, la sì. Mia disavventura è stata per far fronte alle lamentele della mia amorosa, nel senso, noi siamo stati piuttosto avventurieri in giro in macchina un po' per tutta Europa, mi piace cambiare molto. E dopo cambiare cosa? Anno, meta o paese, non fidanzata, no? No, quello no, quello non è, magari quando si stancherà di questi giri, di queste vacanze, se ne andrà da sola. Esatto. E niente, l'ultimo anno che ho portato in Portogallo abbiamo fatto un bel giro in macchina, la promessa è sempre quella di fermarsi in qualche bella locanda, un bel alberghetto, però il tempo è sempre poco, quindi mi ha preso con gli occhi romantici, mi fa: Luca, a me piacciono queste vacanze, però stiamo diventando un po' vecchi, per cui non si potrebbe magari scegliere qualche alberghetto di più piuttosto che dormire in auto, appunto, in campeggio. Esatto. L'hai accontentata? Allora, l'ho accontentata, nel senso che mi sono acquistato una cosa che si chiama maggiolina, che è una specie di portapacchi che si mette sopra la macchina. Sì. Ed è piccolino a vederlo, tanto che con una magica manovella in 30 secondi metto la manovella in un buchino, giro la manovella, questo portapacchi si apre e diventa una specie di piccolo monolocale sopra la macchina, è una tenda da tetto. Cioè dormite sulla macchina? Esatto, come Snoopy, a vedere se ci reggeva. Come Snoopy sulla cuccia praticamente. Esatto, esattamente, c'è proprio una scaletta che va giù e si ritira sulla notte per avere tutto... Scusa, ma se vi rubano l'auto di notte cosa fanno? Viaggiano portando via voi non si sa dove, verso quale meta? Quello sicuramente, finché non finisce la benzina, se poi la mettono loro, tanto di guadagnato. Ma metti il freno a mano prima di salire nella tenda? Assolutamente sì. No, sei in forma. Finti antiforti, quello non è un problema. La cosa più particolare è magari dormire in qualche bel campeggio o addirittura l'autogrill. La cosa particolare è che di notte non c'è nessun problema, l'autogrill è completamente vuoto. Sì. E di mattina arrivano tutti i turisti, quindi tranquillamente, quando noi ci svegliamo con tutta la calma delle vacanze e apriamo la maggiolina, la tenda per uscire, purtroppo c'erano sempre qualche pullman cinesi o francesi che incuriositi da questa, certo, cosa un po' particolare, fanno foto, proprio, esatto, filmati, folla intorno, sì, mangiavano tranquillamente popcorn facendo segno. Pensa Luca, lì. Magari senza che tu lo sai sei finito sul telegiornale di Shanghai dicendo le strane manie degli italiani. Vabbè. Avrei dovuto far pagare i biglietti, infatti. Qualcosina si riusciva a recuperare. Grazie Luca, grazie, perché grazie vedo che c'è già Ivan da Milano, vero? Sì, ciao, grazie. Ciao Ivan, che ti è successo? Niente, allora, come praticamente niente? Avevo in un campeggio, lasciavo la roulotte fissa durante l'estate e facciamo fine settimana. Sì. E un giorno mi telefono dicendo che c'era stata una grandinata. E allora andiamo a vedere la roulotte, le condizioni della roulotte. Sì. Poi siamo rimasti lì la sera a dormire e è venuto praticamente un uragano e un albero è caduto sulla macchina. Ma un albero cosa? Un alberello? Una sequoia? No, albero, proprio un albero centenario, proprio la macchina distrutta, rottamata proprio. Mi spiace anche per l'albero però, perché sai così. Ma voi siete invece incolumi? Sì, sì, no, la macchina non era attaccata alla roulotte, comunque ha fatto danni anche alle roulotte, le tettoie così, però proprio quell'albero è caduto sulla macchina distruggendola. E da quel momento voi albergo e basta? No, abbiamo continuato. Hanno continuato, sfidate, certo, ancora adesso, il destino. Adesso col camper, sì, comunque. Ah beh, col camper. Sì. Dopo ti dedicherò una canzone dedicata al camper, preparati. Grazie mille. Ciao, c'è Diego da Padova. Diego? Pronto? Salve, buongiorno. Diego, salve. Ciao. Niente, a me è capitato in un campeggio in Sicilia, stavamo là, avevamo ben sistemato la tenda, tutto a posto, perfetto. A un certo punto ho sentito degli scricchioli, sì? E mi sono accorto che dal pino usciva della resina e ho capito, insomma, con una pila che che stava scendendo giù l'albero, insomma. Un altro albero. Sì, ma io ci penserei tre volte prima di andare in campeggio a questo punto, oppure nel deserto. Infatti non ci sono più andato. Ah, tu hai detto basta. No, vabbè, è questione di figli questa, insomma. Comunque, niente, sono andato a chiamare il titolare del campeggio, il quale sono uscito con un seghetto, amo quelli di... Ha presente quei seghetti del traforo, insomma, che mi sono messo a ridere, sì. Guarda che è un albero che ha un metro di diametro. Cercava di tirare giù l'albero alpino col seghetto del traforo. Nel frattempo, insomma, abbiamo spostato la tenda, l'albero è caduto, ha fatto danni su tre o quattro macchine, però, insomma, noi ci siamo salvati. Beh, quello è l'importante, ma è una soddisfazione, sai, questi alberi che sono magari secolari, aspettano lì per anni, per decenni, per secoli, quando arrivi tu, pum, cadono. Vabbè, dai, infatti. Grazie Diego. Salve. Ciao. Allora, fate una cosa, lasciate la tenda, prendete il camper, c'è una clip che vi faccio sentire con le disavventure di un camperista speciale, Migone. A Ferragosto, 15 giorni, compriamo il camper. No, il camper no. Perché noi in casa abbiamo una moglie alta 1,65 con un coefficiente rotore coglione 6,8, perché è diluita in 140 metri di casa. E tu invece prendi una casa minuscola che è un camper, un quattro ruote, e non ci metti una donna così proporzionale, ci metti il gigante. Quindi se in casa ti fa vieni un po' qua che hai lasciato un lago in bagno, nel campo ti farà vieni un po' qua che hai lasciato un lago, ma ti romperai i coglioni. 100 milioni di camper su autostrada non va un cazzo, però vai, decidi di comprarlo, vai al concessionario Deplian, foto colorate, patinate. Vedi queste famiglie felici intorno al camper, lungomare, quei pescatori che gli danno il pesce fresco, in montagna, in Svizzera, i bambini giocano con le mucche. Allora lo compri, finalmente lo riempi di roba a parti. L'Italia è bellissima da visitare. Arrivi in una città, no camper. Quattro ruote di entusiasmo da cowboy, già tutto controllato che già non ne posso più, con tutto quel che abbiamo arriveremo anche in Perù. Eccola la canzone dei camperisti. Io non so dove l'ha trovata Claudia stamattina, sono arrivato e con un sorriso mi fa: ho trovato la canzone dei camperisti, vantatene. Comunque bene, abbiamo capito che i camperisti sono una razza spesso così allegra, si sentono un po' i cowboy del turismo. Ma c'è già Marco da Como. Pronto Marco? Sì, due episodi. Due addirittura. Sì, uno, allora intanto bisogna fare la premessa che mia mamma non voleva assolutamente fare campeggio. Ah, pensavo non voleva che tu telefonassi, no? No, poverino, non c'è più. Comunque abbiamo fatto questa vacanza, la prima che mio padre, che era il fanatico invece di questo campeggio spesso libero in Gargano, in un posto bellissimo vicino a Mattinata, sì, dove noi piantavamo sta tenda, la mattina sembrava tutto un posto abbastanza vivibile, alla sera, ai tempi, parlo del 1960 giù di lì, e la gente locale aveva l'abitudine di andare a fare delle grigliate, delle cose, ma addirittura a un certo punto una signora si era quasi messa a fare i suoi bisogni di fianco alla tenda, cioè una all'aperto proprio, alla belle toile. Sì, no, e noi eravamo dentro e abbiamo visto questo qui. Poi il secondo episodio invece, ma scusa, no, scusa, era giapponese? No, erano dei locali che usavano la spiaggia come fosse cosa loro, giustamente. Ho capito. Noi eravamo degli intrusi, certo, gli intrusi eravate voi. Poi invece a Como è successo, mio padre nel 1969 ha voluto realizzare un aeroporto e avevamo fatto dei movimenti terra, abbiamo fatto la tenda. Scusami, tuo padre così ha lobby di realizzare aeroporti? No, cioè, lui era appassionato di volo e dopo tanti anni di peregrinare mi faccio un aeroporto. Si è fatto il suo aeroporto. Va bene, sì. Solo gli amici. E praticamente c'erano dei movimenti terra e lui voleva portarci lì, e mia madre resisteva come al solito, alla fine poi mio padre gli ha comprato una casa lì vicino, perché questo è stato l'ultimo episodio dei campeggi liberi o meno liberi. Insomma, praticamente è venuto un acquazzone, ma molto forte, quasi un uragano, e ci ha portato via noi con la tenda e tutto in mezzo al fango, abbiamo rischiato anche di annegare, perché poi la tenda sotto c'è una parte di plastica, ci siamo riempiti d'acqua ed è stata un'esperienza veramente abbastanza anche, insomma... non dico terrificante, ma piuttosto preoccupante. Comincio a pensare che a fare queste pubblicità per i campeggi, per le tende, siano i proprietari di alberghi. Dicono: voi fate un anno in campeggio, dopodiché sono sicuro che verrete da noi, perché tu poi da allora Grand Hotel. No, mia mamma mi ha detto che voleva la casa, e difatti mio padre poi ha fatto un po' di giri, ha cercato di fare lo sparagnino, voleva prendere un condominio, ha detto: no, stiamo in un condominio a Milano, non andiamo a abitare in condominio in Brianza. Ma mi raccomando, in pieno centro, e lontano dagli aeroporti. Grazie Marco. Grazie, buon estate. Ciao. Ciao a te. Ecco ancora Nino Rota con La Strada, e beh, più un film on the road di La Strada quale c'è, è il vero movimento, però loro viaggiavano per altri motivi, non certo per le vacanze. Come d'altronde, sotto le tende per altri motivi ci sono state anche altre persone un paio d'anni fa, se ricorderete. Non è una storia simpatica, non è una storia divertente, non è una storia di vacanze, ma qualcuno l'aveva presa così. Beh, si trovano bene perché c'è una grandissima assistenza, una grandissima gentilezza, un grandissimo amore da parte di tutti i nostri volontari, che sono veramente ragazzi e ragazze straordinari. Quindi non manca niente, c'è la cura medica, ci sono i medicinali, ci sono i pasti caldi e c'è la copertura per la notte, che tuttavia deve essere assolutamente provvisoria. Ecco, bisogna prendere questo come un camping da fine settimana e poi bisogna arrivare su soluzioni che ci sono pronte e che sono gli alberghi. Ve l'ho detto, no? Si passa dalla tenda in albergo. Comunque, se qualunque cosa vi succeda, voi dovete sempre pensare per il meglio. C'è stato un terremoto, mi hanno messo nella tenda, ma sì, facciamoci questa esperienza di camping. E vabbè, succede anche questo nella vita. Beh, sentite, c'è sempre la canzone del camperista, che sono sicuro diventerà un successo quest'estate. Ma c'è anche un altro modo di muoversi, perché si può essere nomadi in un altro modo. Negli anni 90 si diceva c'è il nomadismo tecnologico, lo dicevano, però poi non si è mai realizzato del tutto, fino a questi anni, fino adesso, quando giriamo anche in vacanza con i BlackBerry, con il tablet, con tutti i telefoni, per non stare mai lontani da casa, giusto per dire su Facebook mi trovo qua. Allora, cosa hanno pensato quelli della BlackBerry? Hanno detto: facciamo una piccola indagine, mandiamo alcuni studenti in giro per le località di villeggiatura e facciamo in modo che loro vedano, spiano, controllino il modo in cui gli italiani usano la tecnologia durante queste vacanze. Una di queste studentesse universitarie, che in questo momento si trova, non posso chiamarlo lavoro, ma si trova in vacanza a fare questo lavoro e questa indagine, si chiama Caterina Paolazzi e io ce l'ho al telefono. Buongiorno Caterina Paolazzi. Buongiorno. Dove ti trovi adesso? Ora mi trovo in macchina a Fano, siamo diretti ad Ancona a prendere un traghetto che parte per la Grecia, arriveremo tra due giorni perché il viaggio è molto lungo, ma ci piace così. Ma che traghetto è? Cioè, è una nave a remi, com'è che andate? È un viaggio, una nave dura 23 ore, abbiamo il posto ponte, non abbiamo neanche la cabina, quindi saremo accampati. Poi arriviamo, dobbiamo attraversare il Peloponneso in macchina, sulle stradine di montagna, volevamo fermarci a Sparta, Tegea, il posto dell'antica Grecia, e poi arriviamo finalmente a Citera e riparte la nostra vacanza, una settimana di mare. Ecco, e una volta arrivati lì cosa farete? Ma lì volevamo un po' vedere quello che resta, diciamo, dell'antichità, ma poi vogliamo anche un po' fare un giro sulle spiagge, capire come funziona. Ci hanno detto che ci sono tanti italiani, ma è rimasta molto incontaminata, volevamo capire come può essere, qual è il connubio tra i turisti e la natura incontaminata. Ecco, ma c'entra anche la tecnologia però. Esatto. Ecco, ed è quello che ci interessa, perché noi dobbiamo capire come il nomade, o quello che chiamiamo nomade, oggi in realtà non sia più tanto nomade, il nomade si allontana dal suo luogo di origine. Invece il nuovo turista è sempre collegato col mondo e con casa sua. È sì, vero? Esatto, ecco. Esatto. Voi cosa fate esattamente? Vi avvicinate ai turisti e fate delle domande? Noi, allora sì, tendenzialmente sì, anche perché ci piace un po' appunto chiedere, sentire che opinione hanno le persone, ma poi quando non è possibile invece facciamo foto, video, così quello che capita. Ci hanno detto che la cosa migliore è raccogliere sul momento, è quello che ci piace anche di più fare, quindi questo facciamo. Ecco. Ah, quindi rapite, rubate anzi delle immagini, un po' come i paparazzi alla fine. Esatto, sì. E tutte queste immagini poi dove vanno a finire? vanno a finire su un blog che viene, diciamo, appoggiato su WordPress, si chiama Vacanze on the Road, è sponsorizzato da BlackBerry. È un'iniziativa secondo me molto interessante, perché è un fenomeno che ancora è indagato, diciamo, in maniera solo superficiale, mentre invece dal punto di vista pratico lo scopriamo solo adesso, quello che qual è il rapporto, diciamo, con la tecnologia, soprattutto con gli smartphone. Ecco, noi vediamo tanti smartphone in giro, sono un po' la chiave della vacanza, ecco. Infatti ormai non puoi andare da nessuna parte se non hai non dico uno smartphone, va bene, o un tablet, o comunque uno strumento che ti faccia sentire un po' in ufficio. Forse non, esatto, vogliono perdere il contatto con quella che è la loro vita quotidiana. Ma hai già fatto qualcosa finora, Caterina, o cominci proprio adesso in Grecia? No, abbiamo già fatto, per me siamo già stati in vacanza, siamo stati qui a Fano un po' nelle Marche, abbiamo un po' girato sia la costa che l'interno. Cosa hai visto lì? Ma qui abbiamo visto delle realtà un po' disparate, abbiamo visto persone che non rinunciano al giornale, anzi lo rincorrono nelle giornate di vento, e invece persone che usano il tablet, restano con, addirittura si addormentano col cellulare di fianco, tipo totem, talismano, da cui non ci si può separare, tipo gorgone apotropaica, ecco, quindi delle realtà molto diverse, non c'entra l'età, è una questione di stile di vita, una trasformazione che si vede un po' in atto in maniera trasversale. Ecco, questo alla faccia dei nativi digitali, siamo tutti ormai nativi digitali, esatto, cioè non possiamo farne a meno. Beh, Caterina, non so se dirti buon lavoro o buone vacanze, ti dico entrambe le cose. Grazie, va bene. Grazie, buon ritorno poi, mi raccomando. Grazie, ciao. Grazie, arrivederci. Ciao. Non a caso ho scelto poi la dolce vita, perché d'altronde farsi una vacanza del genere, che è considerata lavoro, spiando quello che fanno gli altri, può essere divertente. Come divertente l'SMS che mi ha mandato Giulio al 349-238-6666, ci sono anche gli SMS per contattarci. Allora, Giulio è andato in campeggio a Padova con la tenda e per 3 volte durante la stessa notte è stato svegliato, ma non dai gufi o da altri animali, no, la prima volta erano i carabinieri, la seconda la polizia municipale, la terza la guardia di finanza, e ogni volta gli dicevano, oh scusi, buonanotte, vabbè, ti mancava solo la forestale e avresti veramente completato l'intero arco delle forze armate. Grazie Giulio, ci sentiamo noi dopo con altre cose, altre disavventure, adesso c'è la borsa. La bella estate. Siamo tornati, eccoci qua ancora una volta a Nino Rota, questa volta 8:30, che ha questo andamento un po' circense, perché adesso ho un ospite di particolare riguardo, una donna, una roulotte. Moira Orfei, pronto Moira? Pronto, buongiorno. Buongiorno Moira, dove si trova in questo momento? Siamo a Cesenatico, col circo. Ah, Cesenatico. Al mare, sì. Ah, ma non siete in fase di trasporto da una zona all'altra, non andate da nessuna parte, siete fermi lì adesso? Come? Dico, siete fermi a Cesenatico, non siete in viaggio? No, siamo fermi adesso, debuttiamo questa sera. Ah, ecco. Moira, noi stiamo parlando di vacanze in roulotte, oggi. La mia non è una roulotte, il mio è una grande caravan. È lunga 24 metri, quando si ferma idraulicamente si apre e diventa 8 metri per 24, perché quando si viaggia deve essere 2 metri e mezzo, voi lo sapete. Sì, ma cosa fa? Si restringe? Sì, è apposta, no? Sì, ma i mobili che ci sono dentro, i mobili, cosa succede ai mobili? Ah, è una cosa fatta, se la vedesse lei rimarrebbe incantato. Ma a me piacerebbe tanto vedere questa roulotte a fisarmonica che si chiude. Ma ormai sarà... Quanti anni sono che abita? Cioè, non voglio sapere il numero esatto, ma sono tanti anni che lei vive in una roulotte. È tutta la vita, quando sono nata. Io non sto in una casa, non ci sto, non mi piace. C'ho una villa a San Donà di Piave, ma la vedo da fuori. Ah, non è mai neanche entrata proprio? Sì, sono entrata, ho dato l'occhiata e ho detto, mamma mia, aspetta che scappo. È ferma, non si muove. Sono una vera zingara io. No, comunque sì, perché il circo comunque deve spostarsi da una parte all'altra. Ma anche quando il circo è fermo, ci sono dei periodi in cui il circo è fermo? No, noi lavoriamo 360 65 giorni all'anno. Ah, quindi non ha mai bisogno di fermarsi in un posto? No. Ah. Poi, e poi le ferie, noi cominciamo da luglio, dai primi di luglio, fino alla fine di settembre, facciamo tutte le spiagge d'Italia. E l'inverno infatti invece fate le città? L'inverno le città, e quindi l'estate è come una vacanza. Ah, quindi per voi è una vacanza, ma è anche un lavoro. Lei lavora ancora naturalmente, è ancora lì con le colombe? No, io entro, adesso non posso lavorare perché ho un ginocchio operato. Sì. E mi fa un male dalla malora, porca miseria. Oh mamma, ci dispiace. Io entro con una macchina piena di fiori e saluto il pubblico, le dico qualche cosa, parlo e poi me ne vado via, ecco, perché non posso camminare senza le stampelle. Ah, quindi è un ingresso un po' alla Wanda Osiris. Sì. In fondo sì, con i fiori, cioè entra trasportata. Però poi perché il nostro spettacolo è un po' musical, no? Sì. E comincia col Maragià, con la principessa che sarebbe la Brigitta Boccoli, e tutto il pubblico, e tutto il circo, tutto vestito con dei costumi che abbiamo speso una follia, tipo la Wanda Osiris proprio. Ah, vedi, e questa quindi... favola del Maragià è tutto un, diciamo, un vieto. Comincia e finisce con i numeri, e ogni numero c'ha quattro battute di questa. Di questa favola, insomma. Certo. Ecco. A proposito di Brigitta Boccoli, Brigitta è una che è fuggita col circo perché si è aggregata al vostro circo per motivi anche, diciamo, d'amore. Non è scappata, eh? No, si dice. Per il mio figlio quando hanno fatto Realty Circus, si ricorda? Sì, mi ricordo, certo. Ecco, c'era le Boccoli tutte e due. E lei, la signora, che è una bella ragazza, non c'è niente da dire. Sì. Ha visto mio figlio bello, moro, alto, e si è innamorata. Sapendo che era il figlio di Mauro Orfei, che quindi lei sarebbe stata la suocera. Sì, questo... ma io sono la suocera, mica suocera, sa. Ah no? No, io sono brava, gli voglio bene mio figlio, quindi amando mio figlio amo anche lei. Poi lei è una brava ragazza. Un buon carattere. Moira, un'ultima cosa, ma lei quando va a salutare gli elefanti la riconoscono ancora? No, sì, l'elefante ha una memoria, è una cosa spaventosa. E io sono stata via, ho avuto un incidente stradale nel 2000, no? Sì. Sono stata via 6-7 mesi all'ospedale, e quando sono tornata hanno cominciato a urlare, a barire. Ma sono scappati tutti da paura. Invece no, era semplicemente una festa che avevano organizzato gli elefanti. Mi hanno riconosciuto subito, immediatamente. Certo. Moira, grazie tante. Buona continuazione. Fatti complimenti per la radio, è molto bella la nostra 24 ore. Grazie Moira, anche il suo circo. Le vogliamo molto bene. Arrivederci Moira. Arrivederci, salve. Come si chiama lei? Moira, glielo dico dopo in privato, mi chiamo Tommaso. Si chiama lei? Mi ricordava il miglior Mr. Magoo. Comunque, Mauro Orfei è sempre una garanzia. Non si ricordava più che abbiamo anche lavorato insieme qualche anno fa. Comunque, gli elefanti la salutano, barriscono. Mauro da Cuneo, Mauro. Buongiorno. Buongiorno Mauro. Quando ti vedono gli elefanti che fanno? Non lo so. Non lo sai. Allora, io volevo raccontare un episodio successo un paio di anni fa nel sud della Francia. Sì. Era sera tardi con allora la mia ragazza, poi diventata mia moglie, abbiamo deciso di andare a fare campeggio selvaggio. Ci siamo addentrati in una stradina, c'era una bella siepe, però era già buio, non si vedeva cosa c'era dall'altra parte. Abbiamo montato la tenda, abbiamo messo una stuoia di quelle leggerissime che se c'è una pietra ce l'hai nella schiena per tutta la notte. Ci siamo messi a dormire, un'ora dopo abbiamo con l'orecchio appoggiato a terra abbiamo sentito un rumore che non avevamo capito che cosa fosse. Un terremoto? Sì. No, ah. Eravamo praticamente a 2 metri dalla linea del TGV che passava dall'altra parte della siepe. Ah, del treno ad alta velocità? Il treno sta entrando nella tenda. Beh, vi è andata bene, potevate parcheggiare sui stavano binari. Stavano collaudando il TGV Parigi-Marsiglia, praticamente tutta la notte abbiamo avuto il Ecco, è passato il TGV, ce l'ha portato via. C'è Nuccio da Palermo intanto. Nuccio? Pronto Nuccio? Sì, ti sento. Ah, ecco, adesso ti sento anch'io. Cos'è successo? Anche tu hai avuto disavventure con i treni ferroviarie? No, io ho avuto purtroppo disavventure con il camper. Che ti è successo col camper? Allora, ti dico subito, praticamente io 14 anni fa ho comprato il mio primo camper. Sì. E mio figlio era piccolissimo, abbiamo dei bei ricordi, tanto mio figlio gattonava su questo camper, abbiamo anche delle foto. Allora, partiamo per questo primo viaggio a Trento, esattamente fra Trento Nord e Trento Sud, buchiamo la ruota anteriore sinistra. Aia! Ecco, niente, poi la polizia ci ha dato una mano, mi ha accompagnato con un carro attrezzi da un gommista, ripariamo la gomma e ripartiamo, chiaramente mi è costato anche un occhio alla testa soprattutto. Andiamo bene, stiamo lì una settimana, poi rientriamo in Italia. Ma eravate già a Trento in Italia ancora? Sì, eravamo già a Trento, abbiamo riparato la gomma a Trento. Poi siete andati in Austria? Poi siamo andati in Austria. Ah, ecco, specifichiamo, solo a Trento si offendono, come siamo italiani anche noi. E poi al ritorno quindi si è bucata di nuovo. Purtroppo sì, di nuovo a Firenze, di nuovo la stessa gomma. Ah, la stessa? Ah, esatto, la cosa più sbagliata. Ecco, adesso sta bucando il telefono, però non si sente più niente. Comunque deve essere stata una disavventura, una serie di gomme bucate. C'è Mauro da Genova. Pronto, Mauro? Sì, ciao. Spero che il tuo telefono funzioni meglio. Perché abbiamo... Speriamo. Cosa ti è successo? Ma io è successo che, al di là che comunque io ho dei ottimi ricordi del campeggio, ho sempre fatto campeggio in tenda, in roulotte, eccetera, però c'è stato un anno disastroso, perché io ero molto piccolo e i miei avevano organizzato di stare un mese in montagna con la roulotte. Sì. E niente... a Lurisio, vabbè, un posto del Basso Piemonte. Un mese prima della partenza ci hanno rubato la macchina. Aia. Col gancio e tutto per poter trasportare le roulotte. Va bene, tutto a posto, mio padre si organizza, adesso non mi ricordo bene se ha affittato una macchina o cosa. Fatto sta che il giorno che dovevamo partire, che col campeggio che ci aspetta, tutto prenotato, la piazzola organizzata. Cioè avete prenotato la piazzola? La piazzola, sì, tutto a posto, tutto bene, partiamo, arriviamo nel campeggio, quello diciamo dove tenevamo la roulotte per l'inverno, arriviamo e il custode ci dice: no, ma siete già venuti a prenderla ieri la roulotte, non c'è la roulotte. Io, come non c'è la roulotte? Noi siamo noi i padroni della roulotte. E la roulotte non c'era più. Ma chi era? Erano diaboliche dei vacanti con le vostre maschere? Come hanno fatto ad andare lì a prendere la roulotte vostra? Hanno preso dentro il campeggio la nostra roulotte e probabilmente con la nostra macchina che ci aveva rubato un mese prima. Questo è stato poi ricostruito dopo da Ginko, perché dentro la macchina c'era il libretto di proprietà. Ah, quindi hanno capito che c'era... L'hanno cercata e dopo un mese ce l'hanno portata via il giorno prima. Una doppia sfiga, Mauro. Una doppia sfiga, però Alberto, io devo dai. Dire che faccio parte di quelli che... bello il campeggio. Ah, quindi continua ad andare in campeggio. Beh, mi piace, una persona ostinata. No, ho smesso perché sono diventato grande, però da piccolo mi divertivo. Vabbè, ma ci sono anche le tende più grandi, non è che devi stare in una piccola. Comunque. No. Grazie Mauro, ciao, buone vacanze. Ciao. Mi comunicano dalla regia che c'è una telefonata particolare, c'è Antonietta. Pronto Antonietta? Ciao Tommaso. Ciao. Ti ascolto tutti i giorni. Ma anche il sabato e la domenica quando non sono in onda, naturalmente. No, quando peccato. Non ti ascolto. Pensavo registrassi. Mi manchi comunque perché mi fate tantissima compagnia. Allora ti chiamerò personalmente. Cosa ti è successo? Cosa ti è successo? No, ho sentito la Moira che diceva... Ah che... sì, la Moira. Sì, che lei... Non... Cioè, intanto non è una villa, è un castello, perché era di proprietà dei Conti Ancilotto di San Donato di Piave. Sì, ma sai come c'è sempre Tremonti in ascolto, e questa è Radio 24, Tremonti ascolta, no. Uno deve abbassare il livello, invece dice villa. E io, fatalità, oggi compio 65 anni e sono nata lì. Ma allora ci serve subito, ma prego, avanti. È la seconda carrambata della giornata, ma auguri allora, 65 anni. Ma prima chi c'era nel castello di Moira Orfei? Ah, non c'era il cartello. No, nel castello, nella villetta. Sì, è un castello villa, e c'era, quando sono nata io nel 46, era adibito ospedale, e mia mamma mi ha partorito lì. Ah, sei nata proprio nel castello? Ma la storia è bellissima. Ma siccome Maria Orfei ha detto che lei non è mai entrata in questa villa perché dice no, no, preferisco la Roulotte. Io l'ho visitato poi da grande. Sì? Ed è una casa bellissima. Ma c'è già pronto il recinto per gli elefanti? Quando lei si ritirerà? Sì. C'è il recinto degli elefanti? Vabbè. Sì, ci sono delle bestie. Io non sono amante delle bestie. Ah, quindi lasciamole alle bestie. Non... Sì, lasciamo le bestie agli altri. Comunque, Antonietta, è stato un bellissimo momento. Ancora auguri per il tuo compleanno. Grazie infinite. Ma tu sei un pessimista, Tommaso? No, sono molto più che un pessimista. No, perché dici non faccio questo, non faccio quell'altro. Io mi dico ogni tanto, ma non faccio niente. Ma quando ascolto te, dico, ma io faccio un sacco di cose. Per questo lo dico, per far sentire voi ancora migliori. Cioè dite, faccio cose più di lui. Molte grazie. Ciao Antonietta. Ciao, arrivederci. Ciao. Allora, adesso c'è una nuova amica che da oggi ci lancerà delle pillole. È stata intervistata da Fabrizio Intonti. Vladimir Luxuria ci parlerà di quando da piccolo, insomma, allora era piccolo, andava in vacanza e preparava tutto per andare in vacanza in stile rom. Ricordo quando ero piccolo, un po' di sessi fa e un po' di anni fa, che più che andare in vacanza si traslocava, perché non si sa mai, portiamoci anche questo, non si sa mai, portiamoci anche quest'altro. E ricordo che noi partivamo con i miei cugini e i miei zii su questa utilitaria caricata con le gomme che sembravano scoppiare dal peso che ci mettevamo sopra, anche perché un po' di anni fa non c'era l'idea che si andava a mangiare fuori, un po' perché i tempi erano diversi, ma soprattutto anche per la situazione economica. Era considerato un lusso mangiare al ristorante, che si faceva soltanto per eventi speciali. E allora ci portavamo tutto da casa: il tavolino che si apriva, le sedie che appunto erano quelle che ci portavamo da casa, quelle pieghevoli. Noi andavamo in una spiaggia che si chiama Lidotellina, sul litorale della provincia di Foggia, in Puglia, verso Zapponeta. Ed era spiaggia libera e quindi noi montavamo anche le tende, quindi era un vero e proprio accampamento. Cioè, se ci fossero stati già i rom all'epoca se ne sarebbero scappati, perché eravamo veramente, andavamo a colonizzare una spiaggia. Le avventure di Vladimir sono sempre eccezionali. Questa qua non è diversa dalle altre. Andava con tutta la casa, praticamente con i mobili di casa, a fare queste domeniche, perché poi erano solo delle domeniche che trascorrevano in questo Lidotellina, in provincia allora di Foggia, oggi si chiama Bat, come il pipistrello. Abbiamo parlato delle Bat Box tempo fa, quelle casette per i pipistrelli con cui catturate le zanzare. Però da oggi so che terrete un elefante in giardino in memoria di Moira e l'elefante catturerà le zanzare. Noi torniamo domani. La puntata di domani si chiama... C'è il Mauro De Angeli in regia che fa dei commenti e non sa che io leggo il labiale. C'è anche Claudia De Cifra in redazione. Ecco, così vi ho già salutati. Domani la puntata si chiama La Provola Bikini. Mi raccomando, la provola, perché indica quelle forme molto tondeggianti che voi dovete far scomparire prima di arrivare al mare. Quindi parleremo di diete miracolose, parleremo di esercizi fisici, parleremo insomma di trucchi per sembrare più magri, più belli e più sani. A domani, ciao!